buia. Come? Tieni. Che ci dici? È un uomo della frequenza, e tu che sei? Io sono vecchio. Piazza a te, è mezza. Aspetta che metto gli occhiali un attimo. Sì. Stavo guardando il cellulare, dai. Sto di non vedere nessuno, ho detto, ma adesso mi sarai il controllo del cellulare. E se vuoi rispondere alla ricca. E allora? Questo apparato è pronto. Ma che ho preso? Già. Questo baracchino pronto, Pronto, Oh, chi so che devo ritirare io? E se è impacchettato, è quello più che te lo do. Ma quello là, spedito. Ma quale? Il Galaxy. Ma tanto cappello non cosa vuoi dire, o già? Tu a me mi hai detto che il Galaxy era già pronto per partire, e invece sei tra te, ne va. Questo non è il Galaxy. E cos'hai? Questo è quello di Intel Morricon 497. Sì, sì, a caro di. Sarebbe voluto uscire così il pubblico. E quello già. Vai, che non faccio di te in bocca io, vai, pauraggio. Non è che ti cresce il naso, te l'ho detto a non sniffare il Viagra, che il Viagra non si sniffa, se no ti cresce il naso. Perché non è seduto il pubblico? No, la radio è molto più bassa. Ma molto, molto, molto. Ah, ma la pena si sente, è proprio normale, anche più bassa del normale. Questo esce forte. Cazzo, che c'è da esce forte. E faccio un microfono normale. Quello là deve venire a mano mia per uscire bene. All'altro potete dire come tu potete uscire. Quello là adesso sto aspettando. Che devo lavorare, fare mettere le luci e collegare il microfono. Farò mettere un po' il vaso di uscita. No, lo sai cosa devi fare? La decidi di fare a fine, perché non c'ha radio. Torino, ritirato. Non l'ho più visto io a Torino, non stavo facendo a Roma, te l'ho detto l'altro giorno, non lo stavo facendo, te lo voglio ripetere. Ah, io tira. Andare. Magari l'avevo già ritirato. Stavo aspettando il pezzo, non lo so poi se ne è arrivato a farmi, non mi ha più detto nulla. Io sono impegnato in questo periodo, sto uscendo, vabbè, lasciamo. E andare, già l'ho compreso, dai. Cava, cava. Meglio così. Cazzo, senta lì dove, no? Senta, non vede lì. Non lo so, io sono dentro casa, non ne sento. E vabbè, il balcone, già avanti, dai. No, è aperto, ma non ce n'è in mezzo. Addirittura c'è caldo in casa, non si può stare. Infatti se qualcuno riesce a fare un giro, a chi non avrà avuto più a stare in casa. No, qua sta bene. È tutto aperto, la vetra entra, perché non vedo. Se c'è da male, cambia attorno al tempo. Vabbè, mi va io, non mi giravo la macchina. Questo non la dovevi lavare. Io non la faccio, come quella di Vittine. Non la dovevi lavare, Marco, ma ho già. Perché tanto il tempo è così così, la seconda è più lunga, si pone tutto a posto, si pone da male che incorre. Non si comprende più una mazza. Ma a me la macchina sporca non piace, e poi vabbè, deve essere bella linda. Io lo so, magari che non piace una mazza. Ecco, si muore la gattina o non piace la troppa sporca? Sì, muore lui in giù, lo so. Aspetta un attimo, guarda che ti è arrivato un messaggio. 5. Ah, ma non sono mai bene. E a paritolo. Ritura. Ma che sta scendo così male? 5. Come ti male? E a tempo su bocca ha baitato. A cazzo se mi ha mandato un video di mezz'ora. Hai visto? Quella è la testimonianza che ieri l'ho lavato. È da pulita. E così la diventa bianca. La mazza dell'invaria. E che deve diventare bianca? Dai che non è fa di acqua. Che è a sud, non è a nord. Dai a fa. Me l'ha detto Giuliano a me. Così è. E a me Bernacca. mi hanno detto che sono tutti i gatti imbranati, dice che bisogna macchicare l'operaio e tu azzeccavo la gente. Ha detto per la fine che bella di Maseva, e torna completo, torna. E da poi io ti dico, in casa tua. A chi il cartone non l'ho più sentito. A chi? A Tomì. Ah, siamo stati su WhatsApp. No. Sì, ma due parole così veloci. Ha detto che è subito finito, sta facendo un lavoro. Sì, già lo so, e l'abbiamo anche messo. Sì, quindi è super occupato anche lui, anche io sono occupato. Gloria! Che stanchezza! Che stanchezza essere buoni! Ma ha fatto l'operazione! Che ne devo fare poche le cose, maranno, boia! Adesso mi tocca andare a farmi la spesa, non la giugana, uff! Che non c'ho frutta, mi sono mangiato roba di un chilo di pesche per una volta. Vai, no. La frutta adesso la mangio meglio. Non mangio altro ma la frutta. Cazzo, cosa cacchio, pesce, non cacchio. Tutta la frutta, pesche, anguria, arancia, grandi frutti di cariaggia, tutto. Andare, no, io frutta proprio, è raro che ne mangio, è proprio raro che ne mangio. Ma ci vuole, specialmente in questo periodo che perdi un bel di liquidi col caldo. La notte, io mi ripeto tutto appiccicoso, mi ricavo pure un pigiama, anche non vede che ci sono mancata col pigiama estivo o col cartoncino corti, niente. Anche il pigiama ti vuole lì. Beh certo, c'è il pigiama estivo, se non lo conosce è quello pantaloncini corti. Ma no, è proprio un pigiama estivo, io lo muovo per il pigiama direttamente. No, io uso il pigiama, io sono più raffinato. Andare, no, io ho montato il blu, cazzo pigiama. Ma è trattato il pigiama, ma le manca in inverno, quando ero su lo stesso a Milano, cazzo un freddo in piedi alla gatta, mai trattato, sempre montando a petto nudo, mai, pigiama. E deve essere c'era che ti scaldava. E a parte quello, però non l'ho mai indossato, mai messo, mai comparato in vita mia, anche non mi piace. No, io già ce li ho, cioè ho sciato i pigiamoni invernali, quelli grossi, quelli stinti, ce l'ho, ne ho diversi. Ma io già li uso. Anche perché se ti sono al campano di notte cosa fai? Stai a trimutare. No, ti fanno un pantaloncino, vai a trimutare, andi mutati, no? Pantaloncino è una maglietta che ti metto oggi. Tanto lo arrivo a fare il pantaloncino. No. Comunque Alberto già c'è perché sento le cose che si stanno muovendo. Mettete da sole, mi pare che andrà più lì, sennò me li faccio. E cosa? Mettete da sole. E apri. Perché fanno davvero la convento. Già, adesso non faccio la vita, non parlare. L'altra volta me l'ha sfasciata, lo sai, 70 euro per cambiare il braccetto, cazzo. Un lato. 70, che cazzo, la raffetta ci ha fatto. Ma sai dove regalo con un pezzo di spago? No, ti ha rotto il braccetto. Ah, spaccato il braccetto, ma non è che fa la dovretta lo berrato, se si fa la pagina si fa via là. Ma non ti hanno caso, io. Cazzo, passa anche loro a matti, sì. Però non è un anima. Sì, no, che bisogna mangiare ghiacciole a tutto andare. Sta facendo caldo. Poi c'è quella dieta calda, mamma mia. Cazzo, all'ombra si fa un pochettino così. Cazzo, se fa la luce ti scioglie un bel. Io a portare il cane sto andando tardi, proprio per quello. Quando imbrunisce sto andando, poi sono le 9, 9 e mezza. Cazzo, lo muccio. Sì, non vi metti muccio. A quell'ora c'è ancora la luce, però il sole è un po' calato, capito? Non è mai come... Non è mai come quando... Come si dice? Come quando c'è il sole che piombe di gatti. Vabbè, lo portano anche dopo le 7 e mezza. Non è che ci sia il sole a quell'ora, 7 e mezza o 8. No, non ce n'è di sole, ma che? Proprio giù. Sì, ma non è quel sole proprio del salga. Sì, fidati tu, se ne sei da tardi adesso, capito? Sì, non a tardi. Ma Fabio cosa ti ha detto per la parte? Te lo fa? Sì, ma lo fa. Adesso quando devi dare cosa a Tonino, poi vedo il mio. Così, fammi mettere anche il luciccere, che a me mi piace con il luciccere azzurro. Così quando me lo dai ce l'ho pronto. Fammi mettere le luci azzurre nello smitter e le cose. Così ce l'ho pronto quando me lo dai. Certo che sì. No, le luci lo sa, che deve mettere le luci azzurre. Eppure deve fare quella modifica dell'alimentazione, per fare il caffetto. Cara gara. E caso io faccio collegare anche un microfono amplificato che so da palmare, non lo so se va bene, penso che andrà bene per l'aspettaci. Quello bisogna cambiare la capsula e va bene, se ricambi la capsula pompa forte. L'M94 sì, già va bene, è brutto come microfono perché c'ha il coso giallo, vabbè, pare di giocare. Vabbè, poi senti che normale. Io ieri ne ho fatto uno di microfono, mi c'era ricaduto intero e mi si è spaccato. Ho preso, avevo la carcassa di un altro microfono, l'ho tolto quello che non mi serviva e l'ho fatto un altro. E l'ho messo, esce più forte di come ci fu prima. Certo. Credo che vada anche Giulio, la capsula. Ce l'ha data, c'è a me che è tonto. Ah, ce l'ha anche verrà. Io. Però due solo, mi dava quattro, ce n'è altro due, mi sa che non è da zia altro, perché gli altri ne serviranno a lui. Andare, andare. Sono tutti sì, sì, frequenti, non c'è nessun altro. Sì, tale ce ne saranno, frequenti. Sì, sono tutti con le orecchie tese, per paura che parlino male di loro. Ma, questa è tra... Ria. Hola. Attenzione, binario 10, Gambir. Hola. Attenzione, binario 10, ci sei, Gambir. Cambio basso. Ora, attenzione, binario 10, Gambir. Ora, attento, Ginko, ora. Chi sei, Ginko? Ma diabolici sono. Però ho un filo di QRM, pensavo che adesso si ricerrete. No, non ce n'è QRM già. Sera, buonasera, Claudio. Ho detto, adesso ho messo un altro microfono, cioè mi è caduto l'altro e si è spaccato. E allora, la giubbuccio di un guvacco di un altro, da. E mi ha detto Luca che sta uscendo meglio con questa, con questo coperchio. Sembra strano a me. Che radio è questo, il Milan? Yeah. Però col microfono Lafayette. E va bene già, va benissimo alla grande. Ciao Manuel. Ciao qua, sentito. Mi ha sentito un attimo, riprendete il punto. Già, mi ha tolto l'ecco, dai, se non dà fastidio. Stavo provando. Adesso questo qui l'ho piazzato senza la spugna davanti, capito? Va bene, a me non mi dà fastidio l'ecco, se lo vuoi lasciare. Assolutamente fastidio non me ne dà. Va bene, va bene. Bella modulazione, chiara, corposa. La gara, io ogni tanto bisogna accenderlo, sennò si ferma. Tanto a regalarlo non lo regalo, che sta 200 euro mi vogliono da matere, vai. Che sta 200 euro? Lui lascia perdere, ti ho detto, già rimango dentro l'armadio e la radio. Non regalo più nulla, ne abbiamo già parlato. Capito? Quando vendono gli altri vendono a prezzo pieno. Quando ti vedi comprare, stai sempre in diretta e non prendere balle. Io se una cosa vi piace, claro, non tiro né prezzo né nulla, ti do i soldi che vi chiedi e via. Se una cosa mi piace, chi ce l'ha ragione? E io sono idem con le patate, la stessa cosa. Mai ho chiesto sconti, mai ho chiesto niente. Però quando io do le cose, le do in ordine, le do nuove, le do... Anche se devo rimetterci, se una persona merita, la do. Invece qua mi sembra che tutti ci debbano guadagnare da questo cazzo di radio. Ma infatti non è una questione di guadagno, è una questione di passione che si ha tutti insieme, è una comunità. E bisognerebbe agevolarsi uno con l'altro, invece fanno le cose a scopo di lucro. A scopo più che a scopo di lucro, poi l'ancora all'altra, hai capito? Che se io ho pagato a 400, se ti ho tolto gli 50 euro perché non me ne fotto niente, te li tolgo. Ma non è che te la busso regalando, come è già capitato a qualcuno che ho dato delle cose. Capito? Pagate 80 e date 50, ma non sono le 30 euro che vi cambiano la vita, però da 450 euro a 200 euro bisogna fare differenza, se poi un amico anziché dargliela 450 gli avrai 400, vaffanculo, ma cazzo 200 euro sono 200 euro. Che 350 la stavo dando, capito? Tanto la radio chiuso molto poco, io non ci vado a fare casino il 45 mondiale, ci vado, sono andato qualche volta, ma non è che sia una prerogativa mia, la uso qualche volta così per farla girare e poi basta, non eseguo da tempo. Se quando ce l'avevo in macchina già la usavo e allora andava anche bene. Macchina quella è la numero uno, non si discute. E io ce l'avevo dentro l'armadio, nuova nuova, l'ho adatta a Claudio, proprio per usarla, perché lui ha la fortuna che lì in paese non c'è nessuno che le rompe le balle, quindi può usarla. Ma noi come facciamo qua? Cazzo, ogni volta l'attaccavo sentivo quelli del canale 23, sentivo i camionisti da Scala di Ciocca, dalle cimenterie, sentivo tutto, cosa ne vai? Alla fine... Ho visto che le piaceva, un giorno me l'ha detto, ho detto certo, te la rompo, te la prendi e te la usi tu. E quindi io gli ho regalato quella e lui mi ha regalato il Polmar. Adesso mi ha dato anche il 294, che è questo, l'Inuit, che non so se esce meglio del Polmar o peggio, ma mi hanno detto che esce meglio, buh. Va bene, c'era quella affare di quattro, ma si è risolta, va bene. È un cane molto capito, le avevo chiesto io le radio, mai perché non ne stava là, ti immagini? Sì, vabbè già, non è questione di non dare o che cosa, è questione che io ne ho regalato proprio almeno una decina, di cui due non funzionanti da mettere a posto valvolari, il resto tutte funzionanti, gli ho regalato il console, gli ho regalato un sacco di cose, capito? E quindi lui quando io gliele chiedo già me le dà, non è un problema quello là, già, non è questione di, è questione che abbiamo fatto sempre dei cambi, io gli ho regalato delle cose, lui me ne ha regalato altre, tutto qua, non è che a vendere non stava vendendo niente, capito? Tutto qua, sì, ci ho detto la sera stessa, ho aspettato, perché lui magari si riposa, ho un po' pranzo, ho aspettato verso le 5, sono salito, ma come ha tolto il coperchio? Chiuso errore, ha provato, è un mago, Ho detto, ma come cazzo fai a vedere che hai fatto l'errore? Ti sto dicendo che ho fatto l'errore, mi abbaila, ne ha tolto 4, li ha invertiti e la radio è tornata, perfetta. E li conosce a memoria lui, capito? Io non sapevo neanche dove mettere le mani. E lui ha sempre avuto di questi apparecchi qua, capito? Sempre questi vintage ha avuto. No, ma io l'altro giorno l'avevo chiesto e mi ha detto, quando vado a Cagliari te la busco una bella. Anche il coso, ma come si chiama? Ruiz. Ha detto che c'ha un amico che ne ha tanti di radio, e beh tu non vuoi vedere qualcuno, no, non vedo nessuno perché tu me ne sei costantemente. Dopo di lui l'ha dato. E no, io non è che c'ha nulla contro di te o contro lui, ma cazzo tu fammi un pochino di te da puoi dare. Adesso i soldi sono stati investiti diversamente. No, ma allora non ho mai capito già. Io tempo fa gli ho dato un sacco di radio e lui non me ne poteva dare altre, capito? Non me ne poteva dare perché non ne aveva, poi ne adesso me ne ha regalato un paio, tutto qua, è giusto per contraccambiare quello che ho fatto io, ma non ne vende, non ne vende, fatemi mai, tu mi scegliete quella, sceglietene una, ho detto quella, no, guscia no, e allora già mi scegli, e quindi ho detto vabbè fai tu, dammene una bella, quella mi piace, mi ha dato il polma, pure l'altro giorno che sono andato per ritirarmi il 574, 579 e mi ha regalato questa, capito? Perché lui ce l'ha doppia però, e quindi me la latte. Ma io ti ripeto Gianni, ne ho dato almeno una decina e tutte regalate, quindi ha deciso così e basta. Vabbè dai, non stiamo lì a cincischiare. E lui c'è sempre dentro l'armadio, no? Non mi piace come esce di modulazione già, buh, non so. Console, quel console che ti ha dato tu ancora ce l'ha? Certo che ce l'ha, è in garage, sta mettendo tutto a posto in garage, ce l'ha stamattina, ci siamo sentiti, ce l'ha stamattina, l'ha tenuto a posto, facendo uno scaffale nuovo, le sta mettendo, perché erano tutti mischiati, sta mettendo i base con i base, i portatili con i portatili, i veicolari con i veicolari, i microfoni con i microfoni, ha un bel microfono, c'ha tutta la serie delle SBE, della Turner, più 2, più 3, MB più 5, più 4, c'ha lo Shure, c'ha Savelta, ne ha un bel microfono, chi è che ha detto che non c'ha niente, che è pieno di radio. Io non l'ho mai detto, so che usa molto le pizze, le mangia tutta anche radio buone, non mi capisco, non è che non ne ha. Ce li ha, solo che le tiene sempre in garage e comunque radio va a finire che si rubino, meglio che le venda qualcuno che magari faccia qualcosa con un'altra persona piuttosto che lasciare le rubinare in garage. Ne ha belle, c'è la linea Sommer Camp, ce ne ha un bel, c'è la linea Ricraft che lo stesso ne aveva due, una l'ha data a me e io l'ho data a Roberto, vedi, anche con Roberto ne ho dato almeno 5-6, perché? Perché c'è quel rapporto che abbiamo, io ogni volta che vado lì molla tutto e per me fa tutto, capito? Sia per la macchina, cortesie, cose che le chiedo. E quindi chiaramente quando uno ha, come si dice, merita, gliele dai le cose, usami una fruttina di vintage, non ne ho mai venduto, le ho sempre regalate a Gianni Capri e a Roberto Quadratto, non ne ho mai venduto. E poi piano piano mi sono rientrate, adesso due me li ha, due, diciamo in mezzo, perché l'altro è un veicolare, me le ha regalate Gianni, capito? Sì, ha avuto un sacco di radio, me ne ha dato anche a me, della TV, della IAESU, ce ne ha bella roba, è che purtroppo la casa lì è piccola e non c'è posto per fare, se avessi avuto una stanza come c'ho io, guai, sarebbe uscita una cosa bellissima, perché ne ha un bellissimi baracchini veicolari e anche dei vintage base, delle linee complete, Sommer, Camp IAESU, Alicraft, ne ha un bel roba, veramente molto bella. Dove tu stai regalando il vintage, a me ce n'è uno che mi piace di vintage, già lo sai quale. Già, quello guarda, ho avuto offerte, ma offerte che tu mi direi, cazzo, era stata la mia, me l'avrei venduta subito, anche di 450 euro, non l'avevo perché è praticamente un, diciamo quasi un regalo, con un cambio, vabbè. Io l'avevo fatto prendere altra roba, poi insomma, vabbè. Capito i Daniele, quindi non posso darla, non posso, anche l'altra volta lo stesso, stavamo parlando e ogni volta mi chiede, bene, sta funzionando là, che già fa, sta funzionando bene, che addirittura mi ha dato anche il microfono da poco, perché non ne avevo un microfono suo dell'Arche, ma me l'ha dato e ce l'aveva dentro l'armadio, figurati, non lo posso dare perché sennò non va bene, dai. Se ne è privato lui per darla a me, mi ha detto, mi dicono che dai il DAC, non ti parlo più, allora non l'ho mai data, anche perché è una radio che poi non trovo, e mi piace, capimi Gianni, mi sta procurando le valvole nuove, perché c'è un problema già, quella lì è, se tu non la usi, io l'accendo quasi tutti i giorni, però se tu non la usi, parte, praticamente si consuma, non c'ha più tensione, non c'ha più niente la valvola finale, e anziché dare 15 watt ne dà 2 watt e mezzo, capito? Ma te l'avevi già cambiate le valvole qua? Due volte già le ho cambiate, già due volte. Allora, come non l'attacchi, non le fai scaldare sicuramente. Ha quel problema lì. Deve funzionare la parete. Vabbè. No, stavo scherzando, per carità. Ma ce l'hai il microfono originale del DAC? Sì, il microfono del DAC praticamente è un Turner più 3. È un Turner più 3, anziché è scritto Turner, c'è scritto DAC. E basta. È uguale, la figura è uguale a quella del Turner più 3. Tutto cromato, capito? E c'è scritto DAC, anziché Turner. Come quello che ho dato a Roberto, di che cos'era? Era della... nella linea di Craft, sì, Turner più 2, uguale a Turner più 2, preciso identico da tavolo sempre, anziché essere celeste è grigio, come questo del DAC, e anziché esserci scritto Turner c'è scritto Alicraft. Capito adesso, con l'altro del coronavirus si sta a rimettere tutti a posto, piano piano, non ha ripreso la scuola, no? No, è fermo, infatti si sta rompendo le balle, è fermo, ma dice che forse partirà adesso il coso, e meno male già sta, insomma, c'ha tutto in regola, è fermo, e hanno fatto un bel casino con sto cazzo di scuole, non ho capito perché, vabbè, e anche per ammazzare il tempo... Quindi si è messo a fare un po' di pulizia in garage, mi stava dicendo Claudio. Poi ti abbiamo chiamato a Luna e si è sparito, vedi al telefono. Mi hanno chiamato al telefono, sì. Stavo parlando con la mia ditta, non ho potuto rispondere. Io sì, mi stavo chiamando, non potevo rispondere, ma farò principale. Ehi, va bene. Secondo te questa Enoite esce meglio del Polmar o è uguale alla modulazione? C'è più bene, è più corposa la radio, ma anche il Polmar esce bene, non è che esce male. Il Polmar c'è la radio più metallica, ecco la parola giusta, è più metallica, invece questa rimane più corposa. K, infatti Giulio mi ha detto, sembra il K, ehi. Sembra il K con la mia voce già ce ne vuole poco. No, io oramai, a mano che proprio non debba far scaldare 4.30, ma 4.30 una radio può rimanere spenta tanto tempo, non è come 4.40, quindi preferisco parlare col baracchino. Ogni tanto l'accendo, ma è sempre spenta. Ma va benissimo questa, benissimo come andare. E quanti watt da quella? 5 watt? No, 10 watt da quasi. Quasi 10 watt sta dando. Gianni mi ha detto non l'ha mai toccata. Evidentemente l'ha toccata chi ce l'aveva prima. 10 watt, ma io l'ho aperta per controllare dentro, a vedere. È nuova. C'è ancora le lampadine dello smitter e del canale originale. Proprio originale. Insomma, la radio che era il trend, come il Tokai, con le radio lì. Ci sono Tokai che fanno schifo da quanto sono uno. Ce l'avevo uno io, è venuta una persona a casa, quello, me li porto via, dimmi quanto vuoi, cazzo di te potevi dire. Io me l'avevo detto, ehi, cazzo di Tokai, Gianni mi balenassi o 7. C'ha il 5002, 5024, 5008, 5020, tutti i veicolari. Ne ha un bel nuove, con tutti con i microfoni originali. Infatti ho detto, dai un microfono di quelli, cazzo, che escono un bel bene, mi cambio il connettore. No, un attimo, uscio no, claro. No, dico, la roba non ne ha. Poi c'è una cassetta di microfoni da palmo, una cassetta ne ha. A me mi ha dato quello originale, Inuit. Capito, microfoni originali, c'ha tutto originale, già è veramente molto molto organizzato. Adesso se riesce a mettere a posto lì bene e separa tutti i veicolari con i basi, esce un capolavoro lì. Fatto detto, perché non ti allunghi il cavo dell'antenna? Te lo allunghi e ti fai la sala radio qua, no, anche che c'è da morire dal caldo, dice qua dentro. Devo stare con la con la porta aperta non mi piace. Io ho trovato a fare una finestrella nella serranda. Io ho in garage, no, che devo per il gas, magari batte il sole e tutto lì. Niente, c'è la propria camera da letto, quindi ci sono salito. Sì, anche io salito, una bella casa. Bella, che Claudio ce l'ha lì. Ce l'ha lì il baracchinetto suo, la sua cosettina. Va bene. Adesso vediamo se si riesce a tirare su questo cazzo di antenna che c'ha troppo bassa, troppo bassa. Bisogna tirarla su. E quel tipo di antenna, Claudio, vuole cambiarla, perché io l'ho letto su internet che dà problemi sia con l'umidità, sia con la pioggia, sia alta la stazionaria a gogo. Non è un problema di cos'è, è proprio il problema dell'antenna, che rompe le scatole. Adesso va bene, l'estate magari va bene, poi l'inverno come piove dice che da stazionare a gogo, proprio fondo scala ti va. E infatti questo problema già risolvono, nel senso che se è da isolare, se è da fare, capito? Bisogna risolverlo, perché io l'ho vista, l'antenna è bella con l'antenna, neanche un'altra. È bella dentro, bella dentro. Non sono brutte, sono antenne, però sicuramente che hanno fatto il difetto, tra l'acqua magari riparando di più difetti riesce a arrivare anche bene, no? Ma vediamo cosa dice. Le antenne sono così, secondo cosa dici, da problemi, da problemi stazionari. Ci sono sul forum, c'è sul forum con l'antenna lì, tutti dicono male. Che è preso umidità, che è stato stazionato, che fa guai, insomma, che figato ne avrei. Boh, già, ma lui che cazzo ti vorrebbe fare? Non c'è nessuno davanti, tutto regolare, tutto a posto. Secondo me lì, perché il problema è il tetto, è molto pericoloso il tetto. Bisognerebbe prendere un'autoscala da fuori, col cestello, lavorare bene. Capito? Sollevare, prendere un bel telescopico e starlo lì e sollevare l'antenna, mettere bene i tiranti con l'autoscala, tutto, fare un lavoro esternamente, perché lì sul tetto è troppo pericoloso, cazzo. Le travi sono vecchie, capito? Sono quelle travi in legno, cazzo, se gaggi dritto ti ammazzi. Poi l'antenna ce l'ha proprio in angolo, in punta. Mette in punta proprio la facciata. Se mi ha detto quando ha sostituito l'altra, ne stava cadendo per non cadere lui, ha mollato l'antenna, si è fatta tutta un pezzo. Se no avrebbe rimesso la mantova, capito? Non so più lavori da fare di lui, no? Lui è una persona già di una certa età, è grosso, magari per l'equilibrio di calcio. Già, ma chiunque, grosso fine, quando c'è il pericolo io, guarda, ogni volta che me la guardo la 5 alle 20 e detto, vedrai, già te ne scendo, vedrai, però ogni volta che vado su ho paura perché è troppo in alto, e almeno un metro e mezzo di scala, devi stare con la scala appoggiata sul tubo, non è una cosa che posso fare io, da solo, magari in due o tre riesci a buttarla giù, capito? Perché quella bassa, la grande l'ho tolta da solo, piano piano l'ho tolta da solo, ma ci arrivavo con le mani. Qua ti devi appendere alla scala, e la stessa cosa doveva fare lui. Non è facile, quando c'è il pericolo non bisogna farlo, perché sennò, cazzo, te dronchi lo godo, addio. Perché quei lavori si fanno con la corda legata, con la cinghia e con la corda legata coi ganci. Non si fanno così quei lavori, quando c'è così pericolo, si fanno così, con la corda. Io l'ho visto fare da quello che c'ha praticamente l'antenna da sole, io l'ho fatta girare e lavare, il tappetiere me l'ha smontata, se l'ha portata via, l'ha girata e poi l'ha lavata e mi ha messo la parte più nuova dall'altra parte, capito? E quando ha smontato l'antenna era legato con la corda, si è legato con la corda lì ferriata e lui stava lavorando fuori. Questa è la tenda smontata, io c'ho il rullo, giro, la faccio scendere sino a terra con il secchio detersivo, l'ho fatta anche l'anno scorso, piano piano e poi la tiro su, capito? La metto fuori, la tiro, l'aggancio, la metto in tiro e si asciuga da sola. No, quello già me lo faccio io. E insomma, quando c'è il problema del pericolo, non lo so da mai se ti puoi agganciare, non lo so, ma appena si libera deve venire Andrea e vediamo. Andrea mi ha detto che la gran fa una mano nella lampa a terra, già c'ha il fisico nella testa lui. E l'altro giorno è venuto a casa e avevo le ante dell'armadio incastrate, non riuscivo più niente, non riuscivo a aprire il coso, aveva aggiustato lui. Andrea è un bravo falegname, da pagare, no, a me mi aveva girato una porta, ma tanti anni fa, non qua, quando ero nell'altro appartamento, quello più piccolo, mi aveva girato una porta proprio per fare, perché c'era un angolo dove mettermi le radio, mi aveva detto come fare, tutto l'avevo fatto io. Gappa. Va bene, no, questi lavori qua delle radio e scrivania e tutto mi ha fatto tutto Giulio, anche perché lui non aveva tempo, stava lavorando, quindi era un casino, capito? Però quando lo chiamo per farmi qualche cosa, mo l'ha tutto Andrea, non ho problemi, ci siamo sentiti anche l'altro giorno. No, già l'avevo visto come è sistemato nella casa, che c'era incastrato tutto un armadio a muro, c'era incastrato all'interno. E c'era una risega e Andrea mi ha fatto dei ripiani, no, tassellati per appoggiare le basi, due piani. E poi sotto tutti gli sportelli, dove c'erano gli alimentatori, tutti i cavi, le cose, non si vedeva niente, era bellino, era un angolino ma era bellino. E devo sempre mettere le balle, ogni volta mia moglie mi diceva cosa, sposta la sedia, sposta la mano, apre la porta. Allora ho chiamato a lei e ho fatto girare la porta. Capito? E sono rimasto lì un bel po'. E poi quando sono morti i miei soci, smantellato tutto qua, ho fatto fare tutti i lavori che c'erano da fare, io mi sono andato via a Pascoli e poi sono tornato qua. E qua c'ho la mia stanza, là, è un'altra guba. Adesso però un po' vuota. E vabbè già. Vuota. Vuota per modo di dire. Vuota per modo di dire, poi ti mando la foto. Ti scrivo sotto che cosa ho fatto. Ho rimodernato tutto già, capito? Ho dovuto perché in pratica dietro non voleva visto cosa c'era, non voleva visto. Ho dovuto togliere tutto, hai visto il piano libero, tutto lavato e pulito dietro perché era tutto incollato. Dalla polvere, c'era polvere, lana, di tutto, ho dovuto togliere tutto, ed è cosa che devo fare, almeno ogni 6 mesi devo fare così, proprio eliminare tutto, e ne ho approfittato perché ho messo a posto tutti i cavi, tutti i segnati, ho fatto una bella pulizia, bella. Mi è piaciuta anche quella di Andrea la stazione, me l'ha mandata, è bellina, molto carina come l'ha fatta. Ehi, e allora, io ogni volta che andavo lì, dicevo, Marito Montinaggio, Marito Montinaggio, alla fine ci ho rotto le balle. Marito Montinaggio, ehi, cazzo, non c'ho il tempo tuo, io non c'ho il tempo tuo, sì, non c'è il tempo mio. Basta ragazza la graviglia, gli dicevo, ma la si è incazzato, un giorno mi ha fatto la foto che stava facendo il lavoro, e tra però lui ha dovuto modificare tutta la base, la scrivania, c'erano i muri tutti da rintonaccare, verniciare, tutto, capito, ha fatto un bel lavoro adesso, sì, se l'ho visto, adesso è finalmente in ordine, ma prima era qua, un montinaggio, ma non nel senso sporco, perché lui appoggia tutto lì, poi i lavori che fa, delle radio, delle cose, anch'io ci vado a rompere le palle, fammi questo connettore, cambiami questo, fammi quello, dopo tutti in chivi, adesso tutti in chivi, adesso finalmente si è messo tutto a posto. Ci sentiamo più tardi, vai, riposati, sono le 5 appena, già ci sentiamo più tardi, dai. Poi ti mando la foto e ti scrivo sotto quello che ho fatto, dai. Non te lo dico qua, ok? Va bene, dai, già te la mando. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno, canale 10? Attenzione 10, c'è qualcuno? Ebbè, non rispondi più? Attenzione 10, ti c'è? Cos'hai detto? Tu chi sei, Marco? Kappa, sì, comunque sono Riccardo. Non lo so, non mi sono mai ascoltato. Uno di questi giorni, vabbè, forse ti può registrare dalla macchina, vedere come sto uscendo, se sto a schifo. Ma deve essere che sono una perplata mona, perché ti sento bene. Secondo me, forse sono io o anche qualcun altro che è buono per plata mona, perché ti ascolto perfettamente. Ho capito, sì, quella corta. Ma dov'è il gioco? Stavo sistemando e intanto ho fischiato e c'eri tu. E niente, comunque lì come sta arrivando, bene? Ho capito, va bene, grazie Marco. Sì, come ho detto, non ho sentito nessuno, sta diminuendo la popolazione qua in 27 sul canale 10. Pappa. Va bene, l'ho cercato e ho visto qual è, sì, come hai detto tu, è senza smitter. Vabbè, tu sei avanti. Ma sono cercato, non è che mi piace molto, è un po' moderno. Non so, non metti una radio, che vale un sacco di soldi in macchina, metti un giocattolino nel baracchino. No, vabbè, comunque sta andando bene, ti sento bene, quello è la cosa importante. Kappa, sì, lo vedo da qua, mi affaccio dalla casetta sull'albero e vedo tutta questa torre, se vedo che oggi è proprio una bella giornata. Sì, l'ho visto che è un po' sta tiracchiando anche da questa parte e lì deve essere anche più forte. Marco, ci vediamo dopo che continua a sistemare la nuova stazione. Ti stavo dicendo, continua a sistemare, ci sentiamo dopo, vediamo se ci sei più tardi, che continua a sistemare la stazione, che sto in allestimento. Ciao Marco, anche a me saluta il protettore, se mi so che non ci sta andando da un po'. Attenzione canale 10 per una prova radio. Sì, vieni avanti. Sì, ciao, sono io, chi sei? Ciao Marco. Ascolta, sto facendo una prova, come sto uscendo di radio? Ecco qua Marco, niente, avevo terminato questa radio, dovevo eliminare un difetto e diciamo che non sapevo andava bene, ma ho fatto un altro lavoretto e volevo vedere se non si era modificato niente. Allora adesso non so se il micchia è corretto come... Vabbè, grazie, non avrei potuto l'altra radio che ce l'aveva accesa, vedremo, vabbè, adesso la provo. E quindi stavo facendo delle prove. Meglio così, io un po' in recezione, non vorrei fare l'altra, fai un passaggino. Ti dicevo, fai un passaggino che volevo vedere come ti ricevo io. Sono all'ingresso dei punti, che sono dal mare ovviamente. E c'è una prima da 70 metri, da 4 lati. Appena c'è la radio, al telefono. Thank you. prova 10, 1, 2, 3, prova 10, 1, 2, 3, prova 10. E ho chiudissimo sul canale 10 per una prova. Attenzione, canale 10, meo, c'è nessuno? 1, 2, 3, 10, 10, 10, TNB. 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10, perfetta. Niente, serve, vai. C'è nessuno sul canale 10 per una prova radio? Nessuno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non c'è nessuno sul 10 per una prova? No, vabbè. Sì, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10, prova. C'è nessuno? Attenzione, 10. Attenzione, 10 per una prova radio. Attenzione, 1, 2, 3, prova radio, c'è nessuno sul canale 10? C'è nessuno? Sì, avanti. Ciao Robe, sono Fabrizio. Ascolta, facciamo una regolazione di questo Mickey Gay che sto terminando questo 440. No, sono Franco Fabrizio. Ciao Franco, ben sentito. Facciamo una regolazione, come ti sembra? Posso sollevare leggermente? No, mi sembra anche troppo forte già, sta già iniziando un po' a andare in distorsione, si rimbomba molto. Va bene, allora abbasso un po', adesso ho abbassato un po', come ti sembra? Va meglio, va meglio. Devo abbassare un altro pochettino? No, no, va bene, meglio che sia un po' presente la modulazione, dai, un po' forte. Va bene, ascolta, non senti nessun innesco, sta andando bene come modulazione, sì, perché ho terminato dopo tanto questa radio, volevo vedere un attimino, stavo facendo le ultime modifiche, l'ho chiusa e volevo vedere un po' se andava bene, poi farò qualche passaggio, ma adesso era giusto, sono in ascolto già da un bel po' di giorni, è tutto a posto, ma però aveva problemini di un piccolo innesco che doveva eliminare, e sembra che vada bene, dai, ho fatto una cosuccia, vabbè, fatto un passaggio lungo per vedere se senti qualche difetto. No, assolutamente, si sente forse qualche ventola sicuramente lì di raffreddamento, niente di che. E per quello non ti preoccupare, perché è pieno di ventole qua, tra apparecchi da laboratorio, tante varie, ce n'è che ne girano di cosucce, quindi è normale che possa creare questi problemi. Certo, è perfetto, radio 5 è perfetta. Segnale sta intorno ai 9.20 più o meno dovresti, tu arrivi 9.10. Sì, quasi sul più del quindi 9.20, sì 9.20 dai, abbondanti anche. Va bene, dai, allora va più che bene, così riordiniamo un po' qua ed è pronta. Ci hanno fatto un bel lavoretto su questa radio perché era, non è che aveva dei problemini, un po' troppi, se li avevamo messi a posto, abbiamo rifatto anche esteticamente, sembra che sta uscendo dalla scatola. Adesso la teniamo un po' sotto controllo, adesso quasi quasi smonto l'altro 440 e metto questo, così tengo questo utilizzo questo al posto dell'altro, così lo tengo sotto controllo. Ah, sono tutti e due uguali, identici. Sì, sono tutti e due, anche esteticamente, sia uno dell'altro sembrano che siano usciti dalla scatola, perché una volta che li rimetto a posto elettricamente poi ho trovato la vernice uguale identica il colore, quindi riesco a fare anche frontalini e carcasse e tutto. Ovviamente non a bomboletta, farlo sempre roba bicomponente, quindi gli do una mano di questo basio opaco e poi gli do la mano di trasparente opacizzato. Guarda, se lo sai, se non te ne rendi conto che sono stati rifatti. È anche più resistente come verniciatura. Sì, quella che della Leclerc, quella che usano in carrozzeria, anche delle marche buone, mi puoi chiedere un po' tra di me, Roberto, che tipo di vermi ci sono queste, quindi un po' tutte quelle che mi entrano, una volta che le metto a posto elettricamente, poi gli smonto i cofani, isolo tutto, mascherina, gli faccio il bordo, proprio uguale identico il colore, quindi cioè, è bellissima anche da vedere, poi elettricamente oltre messa a posto, sono messe a posto. E niente, vanno bene, quindi vanno bene. Adesso faccio un po' di passaggi, ti ripeto, la prendo, la metto al posto dell'altro 440 e utilizzo questa per un pochino. Questa lo stesso, c'ha tutti i filtri inseriti dentro e questa è già una buona cosa, e poi poi vediamo, dai. Di queste qua inizia a averne un po' troppo, tra 430 e 440 inizia a averne un po' troppo qua e adesso li porterò via una volta che finisco, che sono sicuro che funziona bene, ti ripeto, sono quasi sicuro, però tenerla una ventina di giorni in funzione male non gli fa, così vediamo se c'è pure qualche altro difetto, perché non conoscendola la radio non è la mia, quindi l'ho rimessa tutta in linea, devo solo testarla per vedere se non esce qualche difetto occulto. No, no, sta andando alla grande, ma sono da vendere oppure roba personale o da rivedere in riparazione, da restituire, dai. No, roba mia, non queste forse due le do via, no, uno lo tengo 440 perché lo tengo sempre, poi forse questo 440 e l'altro 430, non so, devo vedere, dai, uno di questi 440 o me lo porto giù al mare, però al mare volevo portarmi, prendermi un altro paio di radio voglio portare, però se porto giù questo al mare lo tengo, devo vedere, devo decidere, se no lo darò via, non so, cioè qui alla fine, no, però diciamo che ne ho riparato tantissime anche agli amici, però sto cercando un attimino, l'ultima che ho fatto mi ha ricardino che praticamente 4.30 adesso è bello veramente, quello tutto rifatto, con tutto gli ho rimesso a posto perché gli hanno mandato una radio che aveva un sacco di problemi, quindi adesso la prova dovrebbe andare bene e basta, poi metterti a fare di queste radio per usini, diceva un lavorettino, va tutto a posto, però poi quando inizia a avere troppi problemi, no, diventi scemo, cioè ci passi serate insieme, perché metti a posto una cosa, poi essendo una radio degli anni 80, e dici, ma cosa è successo? Porca miseria, pure alla fine devi trovare un cavettino che si scollega, esci di testa, sono radio da parte che alla fine rischi anche di non rimetterle più a posto. Ci vuole passione, dai, tu già ne hai da vendere, come si suol dire, così. Sì, solo quello, ci vuole passione, perché questa per esempio l'ho presa, era una radio che io poi di questo ogni tanto quando mi capita le compro, le carcasse, così recupero, per esempio di questa quando l'ho presa, prima di accenderla, so che non accendeva, non faceva quasi niente, allora prima di accenderla sapevo che aveva il display spaccato, siccome ne avevo uno nuovo, tutta la scheda, ho sostituito quello, poi devi smontare in mezzo alla radio, ho cambiato il WFO, perché l'altro non lo so se ha proprio, quello che era nuovo, quello lo devo aprire, controllare, magari va solo ingrassati i pallini, non lo so, devo vedere, perché qui è un encoder, quindi lo devo controllare, sicuramente non ha niente, poi lo revisiono e me lo metto da parte, quindi ho cambiato diciamo quella roba lì e quindi si è acceso, una volta che si è acceso ho iniziato a lavorare e mettere a posto un po' tutte le altre cose, fino all'ultima modifichina che ho fatto, che forse non sarebbe male un po' negli altri eliminare la corrente sul microfono, da dentro praticamente inibire la corrente sul microfono e usarla solamente quando va in trasmissione, male non gli fa, eviti degli inneschi, delle cose strane che questa sta facendo, non è male l'idea, così l'ho fatta e quando me ne entra la mia capita un po', perché secondo dove fa e lo faccio anche di quella modifica, da vedere, però qui l'ho fatta e sembra che vada bene. E il mic stai usando normale o un 60, un MC60 o che cosa? No, adesso sto usando l'MC60 sto usando, ma anche col normale esce bene questa radio, eh? Sono delle poche radio che escono bene anche qui in AM, dai, non sono tutte che escono bene, quelle un po' serie, dai. Anche il 140, tutti questa serie qua, il 140, 9, 430 e 440, poi io non lo sapevo, io ho visto quello di Coso che esce bene anche il 450, boh, strano, perché era sorta dell'850 più AV, avuto e si escono bene, ma non spingono come questa. A 50 di Tiron stava spingendo bene. Ho avuto il 9.40 lo stesso, ma non si andava bene, ma non spingeva così. L'uso anche le radio molto più serie e vanno bene, anche il 9.000 per esempio, quello dello Yaesu, quello va bene, però non esce ovviamente come questi, vanno bene in AM, ma non spingono in questa maniera. No, io me la cosa anche da Claudio, sa che ce l'ha tutti e due. Non c'è quasi differenza, sono fortissimi tutti e due, sia il 4.30 che il 4.40. Sì, sono tutti e due lì, 4.30, 4.40, 140, più o meno sono tutti lì, dai, è quello, la radio dentro è quella, non è che ci sia, alla fine siamo lì, il concetto è quello della radio, poi se vai a vedere, sì, la conversione, però poi la radio, bene o male, il 4.30 è un po' più vecchiotto, mi sembra, del 4.40, Beh, credo di sì, non sono un grande intenditore, però credo di sì, anche in base alla numerazione. Credo, non lo so se poi può essere che me lo modello in fondo, perché quella è degli anni 80, questa è già negli anni 90, mi sembra, questa era, mi caudio di queste cose già ne sa. Sì, è un po' che non lo sento. Intanto già entra Claudio, non più come prima era più assiduo, anche lui ha preso qualche pausa di riflessione ogni tanto. Ho capito, vabbè, io diciamo in linea di massima è difficile che entro perché ho un sacco di se devo fare attività radio la faccio da altre parti, quindi qui entro giusto per quando devo fare delle prove per salutare, due chiacchiere, 10 minuti, però poi diciamo che ultimamente il 90% faccio molto ascolto qua sul canale 10 mentre mi fate compagnia, mentre sto riparando qualche apparecchio, allora mi metto qui ad ascoltare, e magari sto facendo digitale, quindi mi viene meno a fare tutte e due, non sto nemmeno ascoltando né fonti né HF, niente, sto giusto facendo qualche collegamento in digitale, basta, poi altro no, il tempo è quello che avevo altri impegni anche fuori da qua, sempre dei lavori che stavo facendo sempre in qualche stazione radio di un amico, è un lavoro importante, quindi ho dovuto un mesetto, ero presente, mi ero quasi trasferito lì. Ma hai visto laggiù? Ho visto qualcosa di più alto diciamo passando sulla 131. Hai finito lì o deve ancora terminare la stazione? No, lì da Walter al momento ho terminato, un mese di lavoro ci ha voluto piazzare quell'antenna. Dovremmo riportarla giù perché dobbiamo fare allontanare due cose, perché tale già tocca delle piccole modifiche, quando si un po' di modifiche ancora c'è un po' di lavoro, è finita, è giusto, dobbiamo portarla su e fare dei ritocchi, e ci vorrà tempo anche lì. Non oso immaginare come ci saranno le antenne di apparecchi lì. Abbastanza, e lì ci ho passato, mi ero sempre lì praticamente, quindi ho preso questo impegno, infatti gli ho detto la verità si dica, ho preso questo impegno e l'ho portato avanti, ancora non è finito perché dobbiamo fare dei ritocchi, però sapevo che era un lavoro così immenso, non so se l'avrei fatto, cioè è stato un lavoro pazzesco perché mi ha portato via tanto di quel tempo, giornate intere di lavoro, poi tarature, fare arrabbiature, cose varie, dai, troppa roba. Ormai è fatto, dai, qualche piccolo ritocco di perfezionamento e basta, poi anche lui è a posto. No, ho visto che è cambiato qualcosa, ho visto qualcosa di più alto, qualche bel traliccio sicuramente ha montato, da un po' da lontano l'ho visto, però si vedono, sulla 131 si vedono. Sì, siete vicini, abbiamo montato la seconda torre, l'abbiamo montata l'anno scorso, 2 anni fa, poi da quella torre abbiamo smontato tutto e ho messo un'antenna cubica, è una cubica, 4 elementi e 2 per i 40 addirittura, immaginate che cos'è, una enorme, diciamo che ci sono, mi sembra sono 15 metri e solamente i pannelli sono le mi sembra, no, di più forse, perché i lati, quelli più grandi, sono 13 metri, 13 per 13 per 13 quadrati, immaginate un po' è mastodontica, sono stato un mese sopra l'autoscala piazzando questa antenna. Ci ha preso qualche cosa da noleggio, da un'autoscala a noleggio? No, sarà con